Nuovamente in diretta sono le linee di basso di Bill Oswell. È un disco per la Zadig nella rassegna Film Works del 2000, quindi è passato qualche anno, però la qualità musicale resta come restano gli approfondimenti per gli appuntamenti a teatro. Sempre domani, 4 novembre, è un sabato, lo sapete bene, ore 21 al Teatro Biagi d'Antona in via La Pira 54, siamo a Castelmaggiore, quindi siamo con l'ottava stagione di Agorà. Per quanto riguarda questo motivo di presentazione, sarò coadiuvato da un mattiniero già in spostamento, Marco Mazzoni. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno, come va? Ah, benissimo, adesso che sono bene, tardi, anche se un po' in ritardo, ma cercheremo di dare un'esaustiva presentazione per quanto riguarda Otto. Kincaleri è la compagnia o il progetto, ci spiegherai meglio insomma di cosa si tratta, e intanto appunto partiamo da Kincaleri. Come, per quale motivo si è formato questo gruppo? Ci puoi dire qualcosa di più, così ci conosciamo? Certo, certo. Allora, Kincaleri nasce nel 95-96. Diciamo che l'associazione si forma nel 96 e ci siamo messi insieme, eravamo in sei inizialmente. Fra l'altro sono anche i sei quelli che poi firmano Otto, perché è un lavoro lavoro che presenteremo domani. È un lavoro del 2003, diciamo, quindi insomma eravamo ancora in formazione a sei. E così per alleanze, per caso ci siamo trovati un gruppo di amici conoscenti a riflettere sul modo di fare spettacolo, e da lì era tutto, insomma. Abbiamo iniziato a proporre delle idee che avevamo, e questo ha dato un corpo poi a quella che è diventata la formazione di Kincaleri, che poi dal 2007 si è trasformata, perché siamo rimasti in tre che continuano appunto a lavorare un po' nelle stesse modalità dell'inizio. Certo, intanto vedo uno stacco cronologico, temporale meglio dire, 2003-2018 per il lavoro 8, che è nel sottotitolo se vogliamo, ha debuttato nel 2003, poi è stato riproposto nel 2018 e appunto questo stacco, come mai questa scelta? Allora, sì, perché il lavoro 8 è un lavoro appunto del 2003, il 2003 appunto che segnò anche per noi insomma un vero e proprio cambiamento anche appunto a livello scenico, perché erano gli anni che lavoravamo su questa riflessione sullo stato della scena, e quindi proponemmo questo progetto che è quasi un lavoro in forma di caduta, e che nel 2018 abbiamo deciso, considerati i tempi, di rimetterlo anche in scena proprio per la sua attualità. E quindi per noi non è mai stata considerata quasi una forma di repertorio, ma anzi abbiamo deciso proprio di riallestirlo all'interno di un museo, e quindi dargli anche un corpo poi più ampio a tutto il lavoro che vive anche dentro una scena che poi diventa spesso lo spettacolo stesso. Certo, e allora entriamo in scena per lo spettacolo 8. Una persona entra in palcoscenico, cade, più precisamente non entra per cadere, ma cade perché entra. Cioè, cosa significa questa caduta dalle mille sfumature, se vogliamo? Diciamo che è l'essenza di tutto il lavoro. Il lavoro si stratifica attraverso una serie di oggetti che cadono insieme ai performer, quindi è un lavoro di sottrazione che continua incessantemente a interrogare il pubblico che lo osserva, e ci costruisce in qualche modo una drammaturgia attraverso i suoi resti. Quindi non è più importante vedere l'atto di per sé, che è tutto questa caduta, ma tutto quello che provoca, certo, tutto quello che mette in campo. Quindi in questa sottrazione si basa tutto il progetto, tutto il lavoro. Sì, perché del resto anche l'atteggiamento volontario involontario della caduta è qualcosa che dà adito a centinaia se non migliaia di pensieri, espressioni, il caso, l'inciampo, voluto, non voluto e quant'altro, quanto da un gesto di quotidianità che può apparire come qualcosa di casuale oppure chissà, magari anche di voluto, può essere una operazione teatrale di approfondimento e di una sensibilità con spunti importanti di pensiero, come ho già detto in precedenza. Assolutamente. Meno male, perché io interpreto, io faccio le mie omelie interpretando con la mia emozione lo spettacolo. No, ma guarda, allora hai visto giusto, perché il lavoro è un lavoro che non ha niente di improvvisato, un lavoro scritto, esatto. al secondo. Però chiaramente c'è questa sorta di piccola incognita che continua imperterrita in tutto lo svolgimento del lavoro, dove è un'imprevedibilità, dove appunto quello che accade dentro una struttura rigidissima crea sempre poi delle connessioni continue, a volte anche leggermente diverse rispetto a come sono state concepite. E questo proprio perché crea è proprio un lavoro che mette il tuo spettatore in attesa di un fatto, e quindi vivo, sempre vivo sul momento. Puoi restare un minuto che ascoltiamo un po' di Metti una sera a cena di Morricone reinterpretato dai Balanzo e poi torniamo e magari parliamo di collaborazioni e parliamo anche di Otto, che è un nome, perché sai che Otto è l'abbreviazione di Ottone, potrebbe essere un nome, potrebbe essere il numero. Non ho capito, l'abbreviazione di che cosa? È l'abbreviazione di un nome, Ottone, un nome tedesco. Ah, ok, certo. Quindi sono curioso, ci possiamo sentire tra qualche minuto? Assolutamente. Resta sì. In linea, Certo. Metti una sera a cena al grande Ennio Morricone versione bossa da Balanzo. Sabato 4 novembre 2023 alle ore 21, Teatro Biagi d'Antona a Castelmaggiore, ottava edizione Agora. 8/2003/2018, Kim Caleri qui con noi al telefono, Marco Mazzoni. Ci sei, Marco? Pronto Marco? Eccomi. Sei impegnato, ti intrattengo ancora due minuti e poi ho citato il titolo di per sé, 8. Ci puoi dire qualcosa di più se si può svelare? Se no restiamo nel dubbio. Allora, intanto il titolo mette in campo una serie di circostanze. Uno, che è stato l'ottavo lavoro di Kim Caleri. Apposto. Quindi okay. Questo è proprio elemento. E poi anche che si porta dietro appunto questa struttura palindroma che in qualche modo racchiude anche il senso del lavoro, perché il lavoro è un lavoro ciclico che potrebbe continuare all'infinito o scomparire dopo la prima caduta, quindi per noi questo diventava anche molto emblematico per quella scelta che poi abbiamo fatto. Certo, e l'appuntamento, come ho già detto, è all'interno dell'ottava edizione di Agora. Vogliamo citare... Vedi, anche questa... Sì. Questa è un'altra delle coincidenze di Otto, questa non la sapevamo, ma insomma, conferma quello che insomma ci aspettiamo fondamentalmente, le coincidenze. Che il caso non esiste alla fine, lo sai, eh? Beh, così, in effetti. Ottava edizione 8, è certamente un altro aspetto cabalistico, se vogliamo. Vogliamo citare qualche collaborazione prima di salutarci? Certo, collaborazione rispetto a 8, rispetto al... Allora, 8, beh, insomma, non ha collaborazioni, è un lavoro che abbiamo, che è stato concepito da Kim Caleri. Ok. E non ha collaborazioni grosse, se non appunto i vari produttori, che poi sono stati diversi, perché nella ripresa, nel 2018, avevamo appunto il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, il Teatro Metastasio con un aiuto, e poi gli stessi Kim Caleri. Però diciamo che non ci sono grosse collaborazioni. Kim Caleri lavora molto anche in collaborazione con altri artisti, ma non in questo caso qua. Certo. Magari posso ricordare i performer che ci sono, certo, questa nuova versione, certo, che sono Filippo Baglioni, Chiara Bertuccelli e Andrea Pozzoli, che sono appunto i nuovi interpreti di 8 2003-2018, e che grazie a loro continua a vivere in una maniera bellissima e smagliante ancora. Io ti ringrazio per questa anticipazione, tanto piacere di averti conosciuto, seppur telefonicamente. Appuntamento a Castelmaggiore per Agora 8 2003-2018, compagnia Kim Caleri. Grazie Marco, buon viaggio. Grazie a voi, a prestissimo, a domani. Ciao. Ciao ciao. Aver ritrovato Paolo Zanardi, un caro amico, un compagno di viaggio per alcune puntate, finché ne abbiamo avuto la possibilità, ovviamente ognuno con i propri impegni, la propria professionalità, come già presentato in queste due parole all'interno dello spettacolo precedente nella rubrica In Scena con tante voci, un palcoscenico quanto mai popolato a Radio Città Fujiko anche per quest'oggi. Radio Città Fujiko è la prima colazione in diretta da appuntamento a lunedì per una nuova settimana assieme. Sarà la prima completa del mese di novembre 2023. Grazie per l'attenzione, augurandovi un buon weekend. Ricordo il weekend con il Jazz Club di Ferrara, la cui daremo presentazione all'interno di Jazz Live, e la settimana di partenza. Oggi inaugura anche il Bologna Jazz Festival, in una sede di cui vi ho già parlato con altri suoni, cioè al MAST. E non solo in sala borsa per quella che è l'esposizione che ha curato il Bologna Jazz Festival in queste immagini molto molto particolari. Donne iraniane con capelli che diventano improvvisamente motivo di strumentazione, musica e libertà come bandiera per il Bologna Jazz Festival, e un'attenzione al sociale molto importante. Ne parleremo in Jazz Live 11:30-12:30. Intanto vi lascio con Balanço e vi auguro un buonissimo ascolto, un buon venerdì, una buona vigilia di weekend, e poi avremo modo di sentirci più tardi. Intanto un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Buon ascolto, ciao a tutte, ciao a tutti.